Gaucho, Gaucho, Gaucho. Potresti dire anche tossico. Perché? Linguaggio tossico. È giusto. Buongiorno. Chemical Gaucho potrebbe essere. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Roccia. Buona serata. Buonanotte. Beh, diciamo. Buona pioggia! Buona pioggia, veramente, la pioggia non smette più. Oggi è il. Non lo so. È il non lo so? È l'11. È l'11. Devo dire che il 27 si avvicina e quindi la paga è vicina. Già l'11 inizia a pensare alla paga della fine del mese. Perché no, non ho capito il discorso. L'ha già spesa. Ti interessa? Il 27 si avvicina e già dall'11 uno inizia a pensare che il 27 è vicino, quindi mancano 16 giorni praticamente alla paga. Di quale mese? Non si sa. Però arriva. Perché all'11 questo abbiamo... giro li paghiamo marzo. Ah, quello del 98, no? Vabbè, e di conseguenza, perché all'11 ci si è già ballati tutti in pratica, non ci sono già più soldi in tasca, parlo per molte persone che ci stanno ascoltando. E parla per te soprattutto. E soprattutto per me, che le cose da pagare sono tante, però fa niente, abbiamo un'oretta di divertimento e i soldi ci pensiamo domani. Laura non c'è. Come? È andata via. Cosa? Ah, no, ho sbagliato, Laura, scusa. No, scusami, ho avuto un attimo una visione. Amo se no, come mettere un pesce fuor d'acqua. E si inizia. Dopo mettiamo una canzone che mi hanno chiesto sabato. Va bene. E tu non ci crederai. No, dai, dopo la sento, non voglio sapere che cos'è. Come dire, apri il microfono, controlliamolo, c'è il microfono. Bravo! Apriti il cofano e controlliamo l'olio. Esatto. C'è proprio così, no? Ma vabbè. Sono le 15:39 minuti primi, questa è Rock FM, è un pezzo alternativo che ogni tanto noi ascoltiamo, è da circa 2 anni che non lo sentivamo. L'ho ritrovato così per caso. Vabbè, ma se l'hai ritrovato devi metterlo proprio in onda. Sì, okay. Sì. Ci piace, non è che non ci piace, perché sennò non l'avremmo passato, questo Band. È poco, come sicuro. Steve Rogers Band. La band di Vasco. La band di Vasco con una canzone intelligente che piace molto alle ragazze. E alzati la donna e fammi vedere, che mi sembra una cosa. Sì, dai, dire. Diamo giù una contro la tena, vediamo cosa c'è da fare lì sotto. Ma dai. Ma perché no? Perché no? Si sta avvicinando Natale. Evviva! Preparate le uova di Pasqua. Esatto, iniziamo già a farci i regali, perché è il momento. Poi dopo i prezzi aumentano, come dicono i nonni e le nonne. Fai il regalo adesso perché dopo aumentano i prezzi. In realtà potrebbe essere anche vero questa situazione, però da quest'anno c'è un controllo più ferreo. Attenzione ai commercianti, che ci sono gli uomini che guardano, passano in questo periodo, controllano i prezzi, poi sotto Natale ripassano. Io ho detto una cosa, poi dopo voi arrangiatevi, fate quello che volete, se volete fregarci, fregateci pure, poi magari qualcuno ci rimette lo zampino. Parlo per quelli disonesti, perché poi ci sono persone invece che addirittura ci rimettono di tasca propria, perché poi ci sono delle situazioni proprio di onestà pura. Ok, ho detto questa cosa qua perché veramente c'è qualcuno che se ne approfitta alla grande. È Natale, allora uno si ritrova la tredicesima in tasca, che è sempre più piccola, sempre più stretta, serve sempre per altre cose piuttosto che i regali. È serve... una dodicesima e mezza ormai. Sì, serve per pagare veramente il mutuo della casa, la corrente, il telefono, con questo respiri un attimino, perché questo mesetto in più di stipendio in tasca, ma praticamente l'hai già speso tutto quanto, quindi i regali hanno uno spazio sempre minore. Però ciò che conta, vi voglio ricordare, è il pensiero, mi raccomando. Quindi regalate anche una cosa tranquilla, ma è il pensiero. Io ho pensato di regalarti uno stuzzicadente quest'anno, cioè, Graziano. Perché? È il pensiero. Vabbè. Cioè, quando sei lì che ravani su, pensi a me. Io. Venuta. T'ho seguita. Cos'è? T'ho fermata. Come, cosa me lo chiedi pure? T'ho baciata. Insomma, da noi, così. Piccola. Così. Hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto, eri piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore. Perché no, ma ce n'è anche un'altra, eh? Ripenso ancora con terrore. Vuoi sentirla? Tarara. Mai stregato. Aspetta. Non so se la conoscono. Hai voluto. Figurati, chi non conosce questa canzone? Guarda quanti alzano la mano. Piccola. Così. Parapam. Sentiamo la prossima, cosa c'è? La verità. Ah, questa è bella, bella. Fa male. Ah, questa sì è l'altro rock dello stesso periodo. Sì. Qua è un ballabile. La verità. Un ballabile. Sì. Mi fa male. Dai, adesso partiamo, eh. Vieni Claudia, dai. Su, balletto, dai. Aia. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Dai, normale, lo so. Sì, ma non posso cantare, io faccio piove. Dovresti pensare a me. Sulle mani. Sulle mani. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché. È un po' una canzone autobiografica di Graziano. La verità fa male, lo so. C'è un po' di gente che ce l'ha su con te. Ma per quale motivo? Non lo so. Io sono così bravo. La coscienza viene fuori in qualche maniera. No, non sono ancora su VIP io. Tu sei, sì, tu ci sei. Ragazzi, su un nuovo numero di VIP in edicola c'è Claudia. Claudia. Roccia, quindi Rock FM alla grande, al Medigans di Osnago, provincia di Lecco. Vedete la Milano Lecco e sulla Milano Lecco c'è il Medigans, lo trovate. È una cosa enorme, cioè non può passare inosservato. Un hangar incredibile, bellissimo. Su Rock FM abbiamo solo lo spazio per ricordare gli sponsor che hanno partecipato a questo programma e che ringraziamo anticipatamente. Sono esattamente questi: Mariposa, corso di Porta Romana 117, Club Nestlé Nespresso presso la New Espresso di Viale Legioni Romane 55, Gasoline Rock Club via Bonne 11A Milano, Sonic Avventure 3, la migliore compilation di rock underground per scoprire cosa si muove sotto i tuoi piedi. Zero Più offre la competenza e l'esperienza necessarie perché il vostro business su internet sia di successo. New Factory Acquatica, via Raghi 61, Milano. I disc jockey di Rock FM in discoteca. Fane, il tuo punto casa. Nautilus, Cardano al Campo, Varese, a 20 minuti da Milano. Ma come ti sei vestito per il finale? Con le paillette. Paillette e cilindro per Greg Ramelzi. E invece io normale, tranquillo, una camicetta così. Col Montgomery, come sempre. Vi diamo appuntamento a domani alla solita ora. Vi lasciamo con Marco Gravelli. Grazie di averci ascoltato. Speriamo che tutto sia andato per il meglio. Sopportato e soprattutto l'appuntamento è rinnovato domani alla solita ora, dalle 15 alle 16. 16. Ciao, amici ascoltatori. Lo staff di Rock FM vi ringrazia.